ma io quando fresco alle 5 ci sono tutte le mattine, mi tutto l'anno e ce ne sono veramente belle figone, mi fermo a chiacchierare quando capita. Anche lo dico, ferma, ferma, ma praticamente ero con Piero, lo stesso, cioè, siamo fermati, chiacchierando. E Piero avrei voluto vedere la sua faccia. Adesso quella lì, sì. Questa è la notte, giovane mi sentite mia. Gli ho detto, fammi vedere il sederino. E allora si è girata, ha allargato un po' la croce, un tronco di canna Mario, ma culo bello però. E poi davanti aveva, e poi aveva questo pantaloncino bianco, ci vedevano le labbra della figa. Poi era bella di viso pure, ma lo sai cazzo che c'era proprio da andarci. Ma come cazzo fai a andare con queste qua, ne prendono anche che usare il preservativo, ma che abbia da fare se... va bene, ma è una chiamata commerciale. Quella è bella a casa, amica, cioè, quella è bella da chiamare così, se c'è un'amica tua. Poi giustamente se va a chiamartela così, e 5 minuti ti sta buttando giù da cavallo subito, da gatto. Invece quando la conosci, vai a prenderti il caffè a casa sua, cazzo, è tutto un altro discorso. Ce ne sono più troie di queste che sono a pagamento, beh, ce ne sono, ma come cazzo fai? Cioè, anche quando scoppia così il problema è sempre quello, non sai mai che cazzo hai a che fare. Va bene, ma quando c'hai il parastruzzi, sei tranquillo, dai, pegazzi di muscolino, una buona, non ce l'avrà nell'alito questa malattia, no? E cazzo? No, negativo, ma è sempre quello la musica, e va, quando si caricava a Cagliari, aspetta, quando si caricava a Cagliari si rimaneva lì a dormire. La notte capitava di fare anche il giro così, ne vedevi di belle troie. Cazzo, ma belle ragazze, gigante canna, ragazze. Però cosa vuoi, sempre troie sono. Di quelli che fanno i giri così la notte ci sono, vanno a frusci, anche figurati se ci mettono il problema di chiamarci una puttana o una bella figa. Cazzo gliene frega, ma non sai quanti ce ne sono di quelli. Non lo so, ma ieri anche tu non qua ha fatto il bacio al palo. Quello era sabato mattina, l'ho visto io, alle 4:30, è salito lì un BMW grande, c'era anche la polizia, era appena successo, cioè, però c'era già l'ambulanza, erano in due, deve essere che l'amico non ha chiamato prima l'ambulanza, la polizia non ne ha chiamato, che sicuramente erano corti. Sicuramente erano pronti, quindi per evitare, però la macchina a toglierla da lì, poi non lo so come hanno fatto, l'ha visto anche Renato, sabato. La figa, come si fa? È la di chiamare per forza. Infatti, ma con l'ambulanza poi interviene sempre la polizia, anche se non viene nel momento, ma poi andare all'ospedale, incidente stradale, bomba, con chi non miri, analisi, noia. Ma questo cazzo l'ho visto, Questi stanno tutti i furgoncini, vedi che sono tutti a porta aperta. Che dalle caricano fino alla nausea, fini per distribuire romani, vanno nelle farmacie notturne, e ne hanno il giro quelli lì. Guarda, sono guarda. È positivo, tanto già lo permette l'asfalto qua, è poco liscio. Allora, le cose sono l'asfalto, non fai fatto così, no, che tu non si ne buttate fino al muro. Appagato. No, non è proprio sul muro di quelle mandala, non lo potete vedere su, si è aperto una nuova porta che hanno aperto. Sono entrati alla piscina, ho crepato tutto, non te lo ricordi che era crepata. Allora, perché non vedi mettere veloce? Sabato mattina ne vedi delle belle, tu magari non ti faccio città, ma io la traccio tutta e se sto dicendo, tanto che c'era paura nei semafori, ma io anche quando sono lampeggianti, perché tanto quell'ora ce n'è un paio verdi, tu vedi la Serra Seca fino alla Santa Maria, tutti i semafori. E tu vedi tutta quella gente sbronza, cazzo, in giro. Devi andare piano nei semafori, perché se ne passa con sempre qualche uno a 80 all'ora, cazzo, in moto, coso. Anche se hai precedenza, conviene sempre quasi fermarsi e guardare. È positivo, c'è anche troppa gente pericolosa in giro. C'è lì a Terra Seca dove c'è il Mosaico Caffè, il Tiffan, il Meccano. Ci sono certe fighe fuori che riescono a fumare. Il telefono. Era la signora, a vedere anche la risvalto. Capiga, prima avevo visto che anche poco fa ci aveva la chiamata, quando sono stato a spostarsi la macchina, c'avevi il telefono e col quadro illuminato e ti dava come una chiamata aperta. Infatti poi dovevo dirlo e mi sono dimenticato invece. Ma adesso era la signora piccolina, Martina, ma a che punto sei? A che arrivi? Zia, io dopo il sottofondo sentivo la piccolina, e gatti, aspetta che devo aprire.